Avventurieri, la corrente vi sta spingendo a 45 gradi verso nord-est, ma la capitale si trova a 30 gradi nord. Di quanti gradi dovete correggere la rotta e verso quale direzione?